Permettetemi un'osservazione a margine alla visita nel nostro paese del Dalai Lama. È un evento che ho seguito con il dovuto rispetto, cercando di tenere a bada un certo nervosismo crescente, perché si sa, non siamo più nell'Ottocento, almeno il razionalismo ha dimostrato da tempo di non poter risolvere i nostri problemi, e siamo tutti spiritualmente lontanissimi da quei versi del Carducci in cui il termine Lama è impiegato come sinonimo di despotismo religioso, e la simpatia che sospira al poeta è paragonata a quella che in lui suscitava la tassa sul macinato. Il Carducci oltretutto era un estremista che parlava male persino del Papa, e tanto basti. Tranquillizzatevi. L'osservazione minima che mi azzardo a fare non ha nulla a che vedere con tutto ciò, riguarda solo un titolo in prima pagina del Corriere della Sera di domenica scorsa, un'asserita e un po' enigmatica citazione tra virgolette delle parole del Lama in questione, che suona letteralmente: se il Tibet torna democratico posso lasciare. Espressione con cui, come si finisce per capire con un certo sforzo, il buon Tenzin Gyatso, e si chiama così, esprime, a costernazione suppongo dei suoi sostenitori italiani, la disponibilità a rinunciare, se del caso, al potere temporale. Questa del potere temporale, tra parentesi, è una buffa storia. I capi religiosi che ne disponevano si sono sempre dichiarati disposti a rinunciarvi come un peso sgradito, ma sempre e solo dopo esserne stati scacciati a cannonate da qualcun altro. Lo ha fatto anche il Papa, non quello del Carducci, un altro, un secolo dopo Porta Pia. Deporre una pretesa evidentemente è più facile che mollare il trono. Ma non è questo il punto, no, evidentemente. Il punto è quel torna. Se il Tibet torna democratico, dice il Dalai Lama, posso lasciare. Bene, ribatte il lettore non del tutto digiuno di storia orientale, ma perché torna? Per tornare da qualche parte bisogna esserci già stati. E quando mai in Tibet c'è stata la democrazia? Adesso non c'è certamente, ma neanche nel 1950, quando il paese fu aggredito e invaso dalla Cina. Allora c'era la teocrazia. E per quanto la teocrazia possa sembrare allettante a chi contempla il funzionamento di certi sistemi democratici, come il nostro, per dirne uno, non c'è dubbio che la democrazia, tutto sommato, sia un'altra cosa. Non arrabbiatevi, non vi arrabbiate, vi prego, non sto accusando Dalai Lama di ignoranza storica o pregiudizi ideologici, Dio ne scampi. In effetti, lui, che a giudicare dal poco che ne ho letto deve essere persona di gran buonsenso e di alta cultura, non ha mai detto nulla di simile, neanche nell'intervista a cui rimanda quel titolo. Tenzin Gyatso vi afferma saggiamente che la forma di governo che auspica per il suo paese è la democrazia, e che per parte sua ha deciso di rinunciare a ogni carica politica in un Tibet futuro di questo genere. Dichiarandosi disposto, ove i tibetani pensassero di non aver più bisogno dell'istituzione religiosa del Dalai Lama, a mettere anche questa decisione nelle loro mani. Sì, avete ragione. Bisognerebbe avercene di leader religiosi così. Ma allora mi chiedo, da quel maledetto pignolo che sono, perché mai il titolatore, e figura che nel giornalismo moderno conta assai più dell'articolista, ha attribuito a quell'infelice paese un passato democratico che non ha mai avuto? Per crassa ignoranza? Può darsi. Per indifferenza? Probabilmente. Per pura indolenza? Non me ne stupirei. Leggere un articolo è sempre una fatica da evitare, anche quando bisogna metterci un titolo. Ma io non escluderei un'altra possibile spiegazione. L'ignoto falsificatore può aver agito per puro dualismo ideologico. Oggi può aver ragionato: in Tibet c'è il comunismo, che oltre a essere stato imposto a cannonate a chi non ne sentiva particolarmente il bisogno, è notoriamente il contrario della democrazia. E per logica conseguenza, tutto ciò che è il contrario del comunismo è o è stato o sarà democrazia, compresa la teocrazia tibetana, onde intorna. Il sillogismo è volgare. Il Corriere probabilmente non lo userebbe mai in forma esplicita, ma implicitamente in un titolo buttato lì non se lo nega. Facile, no? È facilissimo. In effetti il sillogismo, io lo chiamerei un paralogismo, il paralogismo in questione è largamente impiegato per ripianare una quantità di situazioni imbarazzanti, serve a difendere l'operato di tiranni e tirannelli come Yeltsin e peggio, a beatificare le varie Gladio, i vari Cossiga della storia, a dare patenti di democraticità ai Berlusconi ai fini, a giudicare i molteplici errori della società basata sul profitto e sul mercato, che sta, è vero, distruggendo il pianeta e soffocando l'umanità, ma non ha nulla a che fare col comunismo e quindi va bene lo stesso. se a fronte di tanti vantaggi comporta l'effetto minore di falsificare la storia, che importanza può avere? A ben altre falsificazioni siamo avvezzi da tempo, e del Tibet e dei tibetani, credetemi. Al 97% di coloro che in questi giorni si sono stretti plaudenti attorno a Tenzin Gyatso, 14° Dalai Lama, non gliene frega proprio ma proprio niente. Se in un futuro che tutti auspichiamo, un futuro di vera democrazia per il suo paese, egli volesse per qualche suo strano motivo sbarrare il passo alle multinazionali o non installare qualche rampa di missili cara al Pentagono, state sicuri che lo rimanderebbero in India a tempo di record.